Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Occhio a contropiede, dall'altra parte c'è Insigne, visto con la coda dell'occhio, arriva Lorenzo Insigne in area di rigore, col sinistro Lorenzo Insigne. Dries Mertens, uno contro uno su Gustavo Gomez, lo sfida, lo salta, poi dentro il pallone per Callejón che sbuca, José Callejón, spettacolo assoluto del Napoli, assoluto. Tentativo di sponda da parte di Maggio che poi ribala, 1-0 Juve, 1-0 Juve, possibilità per Cuadrado che ha ricevuto Alexander, occhio al cross in mezzo a cercare il 2-0 di Higuaín, 2-0 Juve. Candreva trova lo spazio, eccolo il cross per João Mario che porta il vantaggio all'Inter, appena entrato João Mario al cross dentro verso Dzeko che colpisce il pallone e batte Rafael, Roma in vantaggio col suo numero 9. Oggi è tornato Giorgio De Luca, il nostro autore svizzero-napoletano, che poi ci parlerà anche della schedina di Pardo, quindi fai il bravo, eh? Non gonfiare il petto subito, Pardo? Sì, ho okay. Vinto. Fai il bravo. Vabbè, capito. Fa bravo perché io oggi non vedo l'ora di incrociare i guantoni, Gianmarco Ferronati in regia naturalmente, di incrociare i guantoni con Pierluigi Pardo e con il mio amico Maurizio Crosetti, illustrissimo. Eccoci, ciao ragazzi, ciao a no, tutti. Perché voi avete parlato nella cronaca di Pardo e parla oggi Maurizio Crosetti nella sua overture della parte sportiva di Repubblica. Parlate di rivoluzione di gennaio, Maurizio definisce Mandzukic addirittura eroe proletario sovietico per questo sacrificarsi sulla fascia sinistra come un ossesso. Io invece, sapete cosa dico? Io parlo di sberleffo toscano, di provocazione estrema, di facce di Modigliani trovate nei fossi medicei. Io parlo di queste cose qui. È stata una risposta labronica di Allegri alla squadra che ha già vinto lo scudetto delle critiche, come ha detto lui in conferenza stampa. Beh sì, un po' c'è questo, certamente, un po' c'è la voglia di stupire con effetti speciali dicendoci li volete tutti questi cucchiaini di zucchero, lo volete il tè con 6 cucchiaini di zucchero, anche se poi magari non dite poi che è troppo dolce, e allora eccolo, e perché no, sì Allegri è capacissimo di questo, poi non è uno sprovveduto ovviamente, non è che gioca a provocare, sa di potersi permettere qualche volta anche l'eccesso e lo ha fatto, e sa anche che questo eccesso andrà calibrato sempre perché non diventi appunto un diabete il sesto cucchiaino di zucchero, insomma, e sì. Quindi non sarà sempre così, ma è indubbiamente un segnale forte, e forse anche un po' l'insofferenza per tutte queste critiche, la Juve non gioca bene ed è brutta e non osa e lascia fuori il potenziale offensivo di qua e di là, e lui giustamente, come dici tu Carlo, ieri ha detto sapete che c'è? Sapete che vi ripicco dentro tutti, ve li faccio vedere tutti così poi voglio sentire cosa mi dite. Intanto lui ha detto questo. Paradossalmente non ci avevo neanche pensato, mi sono svegliato una mattina e dopo un allenamento ho detto no, devo cambiare. Un allenatore a livello teorico, se si legge i libri lo fanno tutti, è troppo facile. Poi dico sempre, l'allenatore vive di sensazioni, di percezioni, poi dipende, io sono poco teorico, ecco, quindi magari ogni tanto mi fa qualche idea strampalata fuori e la metto in campo. L'importante è che sia convinto di quello che faccio, come ho fatto sempre nella mia carriera. Quando c'è il momento di giocare con quattro mediani si gioca con quattro mediani, perché è il momento di giocare con quattro mediani, c'è il momento in cui si deve giocare con cinque attaccanti e si gioca con cinque attaccanti. 800240024 Pierluigi Pardo più che altro si è svegliato una mattina, ha sentito un po' di notiziari sportivi, ha dato un'occhiata ai giornali e ha detto va bene, allora faccio così. Ma no. Perché siamo dietrologi, cioè, Allegri ha scelto perché una squadra, sicuramente ha fatto una scelta che nello scopo scientifico si definirebbe uno spariglio, cioè, sicuramente sì. Ha fatto una cosa irrituale e che probabilmente è figlia, ma non sono psicanalista di nessuno, insomma non voglio fare rispose lo psicanalista a quattro soldi, è probabilmente figlia di una settimana che è stata una settimana complicata, anche di polemiche, anche di pressioni, credo anche di autocritica, perché poi Allegri, insomma, non è che quando viene criticato, cioè quando la squadra fa quel brutto primo tempo a Firenze, non è che Allegri sia contento o no, Allegri pensa non che abbia giocato bene, no, Allegri è consapevole delle difficoltà, quindi alla luce di tutto questo gli sarà balenata questa idea, che secondo me potenzialmente è molto interessante, perché io mi ricordo sempre il Di Maria abbassato sulla linea dei centrocampisti, sì, per sfruttare al massimo il massimo potenziale del Real Madrid da parte di Ancelotti. Mi ricordo l'Inter che vince il triplete chiedendo ai tuoi non sono così d'accordo con te, cioè non la vedo futuribile questa formazione. Circostanze secondo me sì, in alcune circostanze non sarà chiaramente la formazione di partenza di tutte le gare, però io credo che ieri la Juve abbia dimostrato ad Allegri, a se stessa e a chi guarda, che se quei quattro tenori lì davanti, perché poi alla fine Cuadrado era nel suo ruolo naturale, ma insomma il vero tema era la presenza contemporanea di Pjanic, di Mandžukić, di Dybala e di Higuain, no? Se quei quattro tenori lì si danno tutti da fare, danno tutti una mano, ieri Higuain ha recuperato i palloni nella sua metà campo, Mandžukić ci ha fatto il terzino, la Juve può avere un vantaggio poi quando il pallone ce l'ha lei, perché con tutto rispetto per Sturaro è chiaro che Pjanic tecnicamente è un'altra cosa, no? Quindi non mi sto cadendo contro Sturaro, però è ovvio che è una squadra molto più di governo quella di ieri, molto più frizzante come qualità. Devi capire se riesce a tenere l'equilibrio. Ieri tanto che poi ieri c'eri anche tu in onda, ho citato quello che ha scritto Bonucci appena uscito dal campo, perché è uscito sulla sua pagina Facebook in maniera in tempo reale, e scriveva: avete visto, non importa dove giochiamo, io sto parafrasando perché non lo ricordo esattamente, non importa dove giochiamo, giocano 11 giocatori, questa è la Juventus, questo è lo spirito della Juventus, e quello è un grillo parlante, perché Bonucci sappiamo bene come rappresenti anche la bocca della Juventus. E qui poi arriviamo anche all'altro punto che approfondiremo subito dopo il traffico. Lì sì, ha ragione perfettamente Pardo, secondo me formazione difficilmente replicabile. Formazione, se vogliamo, molto europea, perché ci riempiamo la bocca con questa storia secondo la quale ci vuole qualità per vincere in Europa, in parte è vero, ma soprattutto tu giochi con questa formazione che io chiamo politica nel forziere dello stadium e chiedi un enorme sacrificio individuale ad alcuni giocatori. Traffico. Tutti convocati. Convocati. Tra 5 minuti ho promesso di liberare Maurizio Crosetti e siamo uomini di parola. Dicevo di quest'altro aspetto che è molto interessante, cioè formazione politica nel forziere dello stadium con una squadra, contro una squadra femmina come la Lazio. La Lazio ha perso con tutte le prime della classe salvo il pareggio con il Napoli, però c'è questo, ci sono i giocatori che hanno detto sì. Allora, lo faccio per te, Mandžukić, vado a spolmonare, a spaccarmi il cuore su quella fascia, giochi un ruolo non mio, Dybala allargo la raggio d'azione a costo di perdere, lo scrivi anche tu Maurizio, un po' delle mie caratteristiche, delle mie potenzialità. Ancelotti trasformò questo in una regola, Mourinho trasformò questo in una regola, Ancelotti con l'albero di Natale, il famoso centrocampo, tutto stelle, Mourinho con Eto'o terzino, non so se questa sia l'idea anche di Allegri. Dipende dal centrocampo della Juve, dipende dai tempi e dai modi di recupero completi di Marchisio, eventualmente da un nuovo arrivo, ma ci credo poco, di grande sostanza al mercato di gennaio, dipende da come l'avversario aggredisce o non aggredisce la Juve. La Juve ha patito nelle quattro sconfitte moltissimo l'aggressione dell'avversario, che ieri non c'è stata minimamente. Non credo che si possa permettere questa squadra e questa formazione, anche se Allegri dice così si vince la Champions. Io non credo però che tu in Europa possa andare con quattro attaccanti chiedendo a Pjanic di fare il mediano, e quell'altro è soltanto che dire, soltanto per modo di dire, un grande giocatore, però non basta, insomma. E quindi il discorso dell'equilibrio sarà centrale. Bonucci sostiene che il modulo vero è la mentalità, sì, e possiamo essere d'accordo. Resta il fatto che ieri abbiamo visto la settima versione tattica della Juventus, e io ho l'impressione che al netto di formazioni politiche, di infortuni, di ricerca continua del meglio e anche di duttilità, 7 siano un po' troppe, e credo che nessuna grande squadra vinca Scudetti o Coppa dei Campioni o Champions League cambiando 7 volte lo schema, quindi adesso da adesso a giugno io credo che la Juve debba avere una al massimo due versioni, sennò poi si perde. Sono d'accordissimo, senza dimenticare che Allegri cambiò la Juventus, cambiò e disegnò la sua prima Juventus nella prima stagione nella partita decisiva contro l'Olympiakos, quando per la prima volta schierò i quattro difensori cambiando il modulo di Conte. Quindi non è uno cui manca il coraggio, questo sicuro. Maurizio... Ah, questo no, e neanche i giocatori. Anche i giocatori. Grazie Maurizio. Grazie a voi, ciao. Ciao, Pierluigi, vedete stasera di Chitaka? Sì, ci vediamo. Siamo io, lui, Ventura e Rud. Facciamo una cena a quattro. Tu, lui, Ventura e Rud Gullit. Che poi domani viene in radio da noi. Che poi Rud, è giusto, è patrimonio dell'UNESCO. Adesso Auriemma mi perdonerà se ho avuto questa sua espressione, ma Gullit è patrimonio di tutti quelli che amano il calcio. E domani lo portiamo qui a tutti i convocati in carne. Ormai le trecine non ne ha più, anche se da qualche parte devo aver visto ancora in giro qualche cappellino con le treccine, te le ricordi? Certo, il cappellino con le treccine. No, senti, tornando su Juventus e poi andando oltre, oltre questo e andando anche dagli ascoltatori, andando anche alla schedina, tu hai commentato la partita ieri per Mediaset Premium e sei d'accordo con me sul fatto che i giocatori abbiano dimostrato di voler fare questo regalo ad Allegri? Ma io non abbiano voluto dare questa risposta ai detrattori. La Juve ha dato un segnale ieri, non c'è dubbio. Il segnale secondo me hanno dato soprattutto i giocatori più forti, no? Nel senso, la partita è stata sbloccata da due prodezze, secondo me anche con la complicità di Marchetti il primo gol, ma insomma dalla qualità supersonica di Dybala e Higuain. Essenzialmente ieri Allegri ha fatto una scommessa, ha scelto di mettere più qualità in campo tutta insieme, prendendoci un rischio dal punto di vista degli equilibri. La squadra ha tenuto, tutti si sono dati da fare, la Lazio non ha avuto secondo me il miglior approccio possibile alla partita, ma manca la controprova, potrebbe essere stato anche semplicemente merito della Juve, ed è arrivata questa risposta. Non starei a caricare la cosa di chissà quali rivoluzioni copernicane. Non è che la Juve stesse giocando contro Allegri una settimana fa e non è che ieri abbia giocato per Allegri. No, non ho mai giocato contro Allegri. La Juve è una squadra che ancora ha trovato... non ha trovato completamente una formula, no? Ha cambiato squadra tantissimo, cambia modulo. Da questo punto di vista sicuramente Allegri qualcosa in più forse si aspettava, qualcosa in più poteva fare anche lui. Io non sto dicendo che sia perfetto Allegri sempre e comunque. Credo anche che abbia tutte le carte per potersela giocare su tutti i fronti. Insomma, se guardiamo classifica, posizionamento, il Champions e Coppa Italia... L'unica vera delusione è la Supercoppa italiana, dove il Milan ha avuto ragione ai calci di rigore, facendo una bellissima partita e portandosi a casa la Coppa. Per il resto, insomma, la Juve si è concessa delle pause e sempre dopo i turni infrasettimanali, sempre dopo le partite di Champions o comunque gli impegni infrasettimanali, e poi ha subito reagito. Sta lì davanti e mi dà la sensazione di una squadra che sta gestendo la situazione. Anche a me dà la sensazione di una squadra che sta gestendo la situazione in maniera assoluta, ma comunque ti faccio l'esempio di che dire. Ieri Vittorio Reggio mi ha colpito con un'immagine: ha giocato al Firenze come se fosse in campo a fumarsi il sigaro e a mangiare le caramelle. Ieri era un altro giocatore, cioè era un giocatore che si è fatto un mazzo così per tenere gli equilibri, era l'unico frangifrutti che poteva avere la Juventus. Vabbè, dai, fiato alle trombe la schedina di Pardo, cioè m'ha raggiunto Giorgio De Luca. Pier, com'è andata? Benino, ho battuto Capuano e questo c'è qualcosa. Vabbè, se la sfida tra te e Capuano siamo... Vabbè ragazzi, ho capito, allora, siamo due. Allora, aspetta, ho fatto 6 su 10. Hai fatto 6, ma avevi detto? Viaggiamo fra il 7 e il 9 questa settimana, dai. Non fare... Vabbè, ho capito, dai, adesso... Viaggiamo tra il 7 e il 9. Sì, vabbè, ok, non ho sbagliato. Gli errori più gravi. Chievo Fiorentina X. Sì. Ovviamente un errore. Però hai preso la Samp, che ha perso. Incredibile. Poi Empoli Udinese 2. Incredibile. Empoli Udinese avevo detto 2. Sì, devo dire la verità, insomma. E Bologna Torino X. Esatto, stesso. Vabbè. Però insomma, ho beccato il Napoli che vince a Milano, non è proprio un dettaglio, a differenza del signor Capuano, che però non ci può rispondere adesso, quindi noi infieriamo. Quello è il gran pronostico, Milan-Napoli 2, il vero appuntamento a venerdì. Vero, sì, appuntamento ovviamente venerdì. Ormai il vero capolavoro è quello, il tuo vero lavoro Roma, è quello. La Roma e la Juve erano abbastanza. Ma poi aver beccato la Sampdoria è qualcosa di mostruoso. Mostruoso. 0 su 8 sulla Samp, sbagliavo sempre, a sto giro l'ho beccata. Sono andato per la legge delle probabilità, capito? Però, quindi non ci abituiamo. Sì, però insomma avevo dei sospetti che la Samp potesse fare risultato. Io, hai studiato tutte le partite della Sampdoria della stagione. Non mi aspettavo francamente il tracollo del Torino e nemmeno la sconfitta dell'Udinese, però insomma cose che succedono. La verità poi è che secondo me abbiamo adesso e rischiamo davvero di avere tante partite proprio inutili. E no, questo lo dicevo io. No, ma scusami, dimmi cosa. Lo ripeto, ripeto i nomi. Cosa avranno da dire da qua alla fine della stagione? Beh, l'Atalanta è un discorso a parte sui generis che non vorrei toccare, perché nemmeno l'Atalanta sa cosa vuole fare, però certamente sta facendo a una classifica. L'Atalanta è in corsa per l'Europa, League e fa benissimo. Ma l'Atalanta corre senza pesi sulle spalle verso Lidi che inventa lei. Anche ieri ha schierato in campo tre giocatori del 99, se non ricordo male. Ma aveva importanti assenze, ha venduto Gagliardini. Dimmi cosa faranno da qua alla fine della stagione. Torino, secondo me, Torino e Fiorentina. Io penso che vogliano correre fino alla fine per l'Europa League, anche se sono attardate. Bologna, Cagliari, Udinese, Chievo, Sassuolo, Genoa, Sampdoria ed Empoli da qui alla fine della stagione, dove vanno? Sì, sì, è vero, sono clamorosamente d'accordo. E il problema secondo me non è tanto nelle 20 squadre, ma è nelle tre retrocessioni. Quest'anno lo vediamo in maniera plastica, perché sono tre le squadre completamente attaccate, potevano pure essere quattro, però insomma già quattro è più difficile siano attaccate rispetto a tre, anche statisticamente. Quindi tu pensa se la quart'ultima retrocedesse, avremmo tutte le partite sarebbero adesso improvvisamente importanti, perché nella zona da quart'ultimo posto arrivi a metà classifica, in pratica sotto al Torino rischiano tutte, diciamo, visto che c'è ancora un girone da giocare. Ascolta, quindi... ma prima di Matteo da Modena e Francesco da Latina posso farti una domanda scomoda? Certo. È vero che le pay TV non gradiscono l'idea di una riduzione del numero delle squadre per il campionato? Ma non lo so, innanzitutto perché io non sono una pay TV, nel senso che non dirigo niente. Tu non sei una pay TV? Io penso in generale che il problema non sia questo, nel senso che tutti i grandi campionati, quelli che poi vincono in Europa, sono a 20. Cioè non è che il campionato spagnolo sia a 18, il campionato inglese sia a 18, quindi... Io non credo che sia quello il problema. Sicuramente il calcio italiano negli ultimi anni ha avuto una crisi economica, un aumento della distanza che per resto è avvenuta anche negli altri paesi tra grandi e piccole, quindi questo. Però io ti posso dire quello che penso io, rappresento solo me stesso e ti dico che a me quattro giornate in meno di campionato non mi piacerebbero. Cioè io sono contento di fare 38 telecronache e farne 34, di andare a vedere, non so, tra due e mezzo a settimana di partite, di vedere 100 partite l'anno invece che 80. Di campionato, quindi io è un po' quello che ieri ci ha chiamato un ragazzo che lavora in fabbrica e l'ha spiegata molto meglio di me, che poi a noi piace vedere la partita. Che era in rota, era in cold turkey, come dicono gli inglesi quando non c'era la partita. Certo, se però vedere partite vere, no? Nel senso che quest'anno adesso vedi la prossima giornata di campionato, c'è tutta una serie di partite che sono così, si gioca per Romanzo, cioè, si gioca Bologna, una partita fra due squadre che sono lì a metà classifica. Ce ne sono anche altre così. Prossima giornata ad un beccato ce ne sono pochissime. Tutto questo il Crotone ancora deve crederci. La Fiorentina vuole andare in Europa col Genoa, l'Inter col Pescara, la Lazio col Chievo, il Napoli con la prossima giornata è stupenda. in assoluto di partite che non aggiungono molto, ce ne saranno purtroppo tante. Di blue chips non è che ne abbiamo tantissime. Modena, Matteo da Modena. Sì, salve. Solo una cosa, non capisco perché dite che la Juve così in Europa non può andare, nel senso, se guardiamo, non ci immaginiamo una Juve che va al Bernabeu o al Camp Nou a giocare così, però tutte le grandi d'Europa giocano con 3-4 offensivi. Poi un'ultima cosa, se a Firenze l'aveva persa Allegri, ieri l'ha vinta lui e c'è da dargli un grande merito. Nonostante a mio giudizio gli sia venuta quell'idea per l'infortunio l'ultimo di Marchisio, se no avrebbe giocato con i tre in mezzo, però non lo sapremo mai. Matteo, sul fatto che ieri abbia vinto Allegri, secondo me ieri ha vinto una grande Juventus, e Pardo lo sa meglio di tutti visto che era allo stadio. ha vinto una grande Juventus con questa, con questo jolly pescato dal mazzo da, da Allegri. Quanto all'Europa, tu cosa dici? Io dico quello che dicevo prima, cioè secondo me la Juve per andare a vincere, per andare a vincere, per andare a vincere in Europa, tanto per essere molto chiari, deve fare un salto di qualità, cioè deve far sì che tutto il suo potenziale qualitativo, che è molto, per essere competitivo a livello europeo con le grandi, devi schierare tutto, tutto il potenziale che hai. Quindi vai a farla, vai a farla a pugni in faccia, senza usare la tattica. Ricordate come ha vinto la Champions League, eh? La vita con Milito in campo contemporaneamente a Eto'o che faceva, che si adattava a fare all'esterno, l'anno in cui Milito ha fatto 30 gol, yes, yes, yes. Con Snyder, cioè, questo è con Pandev, questa è l'Inter che ha vinto, quindi si può giocare in quel modo lì, si può giocare in quel modo lì, magari non tutte le partite, a patto che ci sia un grande lavoro da parte di tutti. Allora per esempio il Mandžukić che abbiamo visto ieri, che non mi sorprende perché lui queste caratteristiche di sacrificio che l'ha sempre avute, è una risorsa straordinaria. È veramente un Pandev dei tempi d'oro dell'Inter di quegli anni lì, o lo stesso discorso per quanto riguarda Samuel Eto'o, no? Io credo che questo sia un bel segnale. E poi sono d'accordo con l'ascoltatore, non si può dire che Allegri la perde a Firenze e poi nella settimana in cui si inventa una roba completamente nuova che la vince la Juve, perché se no vuol dire veramente che abbiamo un pregiudizio nei confronti di Allegri. Io penso cosa che Allegri mai... qualche partita l'abbia sbagliata, qualche però partita ieri, l'ha sbagliata, non ha ancora sbagliato una stagione, una scommessa, dai. E l'ha vinta. Non ha ancora sbagliato una stagione da quando è la Juve. Francesco Latina, buongiorno. Salve a tutti, intanto un paio di premesse. Nell'ambito di tutti i convocati, non me ne voglia Capuano, ma Pardo e Genta sono i Dybala e i Higuain. Detto ciò, vi ascolto sempre con vuoi fare Dybala o Higuain? Pardo come ha perso il scomparire, Capuano è Pjanic. Esatto. Pjanic. Oggi è tutti contro Capuano perché ha perso anche rovinosamente contro Pardo, quindi oggi è tutti contro Capuano. Esatto. Povero Giovanni, uno di noi. Lo abbracciamo forte. Detto ciò, la mia considerazione era riguardo al modulo. Secondo me ho seguito un minimo Allegri, ho letto qualcosina, anche statistiche, poi i numeri lasciano il tempo che trovano, ma ho visto che con la difesa a 4 sono stati fatti la media punti è stata un pochino più alta, abbiamo perso meno punti per strada. Con la difesa a 3, se il meccanismo non è oliato come quando c'era Conte e come nel primo anno di Allegri, con il centrocampo che spinta un po' di più, si fa un po' più fatica. Detto ciò, sentendo anche l'intervista nel prepartita di Allegri, che diceva le soluzioni possono essere queste e queste, ma forse ce n'è anche un'altra e nessuno ci aveva pensato, l'ha ribadito anche a fine gara con una punta di sarcasmo che gli è propria. Mm-hmm. Secondo me è stato proprio uno scherzo, cioè per dirla alla Herbert Ballerina è stata una burla, come direbbe anche il buon una burla Parto. Cioè la formazione secondo di ieri sì. È stata una burla, secondo me sarà un modulo da utilizzare in corsa quando la partita io sono abbastanza d'accordo, è quello che ho detto ieri, sono le facce del Modigliani, lo ricordate tutti, no? Il famoso scherzo pescate nei fossi Medice a Livorno, una burla toscana. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo 800 24 00 24, che ci sono molti altri temi da affrontare, perché non c'è solo la Juventus là in cima che distrugge la Lazio con tutte le sue stelle, ma c'è l'Inter e la Roma che si assomigliano molto, peraltro soprattutto in alcune caratteristiche hanno chiuso la Cler. Tutti convocati. Sono Enrico Ruggeri, anche questa settimana grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. Joe Jackson, il padre padrone dei Jackson 5 e di Michael Jackson. Dalla musica classica al pop, dal pop al glam, la controversa storia del grande pianista Liberace. Sicuramente la più grande serial killer della storia, la contessa sanguinaria Elizabeth Bathory. Un allenatore del tutto particolare, testimone e attore di un altro calcio, Oronzo Pugliese. E poi una leggenda del West attraverso una storia che vi stupirà, Billy the Kid. Tutti i giorni alle 15.30, naturalmente, su Radio 24, Il Falco e il Gabbiano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Sentimento sicuramente un po' di amarezza, di dispiacere, ma anche soddisfazione per come ha giocato la squadra, perché non meritava la sconfitta, però abbiamo giocato quantomeno alla pari contro un avversario di primissimo livello. È vice campione d'Italia, un avversario sono 6-7 anni che gioca costantemente in Europa League e Champions League. C'è soddisfazione e ci deve essere convinzione di poter fare ancora bene. Ma gli altri corrono tutti forti, quindi noi possiamo solamente pensare a noi stessi e provare a vincere da qua alla fine del campionato più partite possibile, sapendo che continuando così chiaramente ci toglieremo delle soddisfazioni, ma che il nostro futuro per arrivare nelle prime tre posizioni non dipende solamente da noi, ma soprattutto da quelli che ci stanno davanti. Sogno, né tantomeno faccio calcoli, noi dobbiamo pensare soltanto a fare le cose bene, a credere di poter migliorare, a provare a migliorare e migliorare, questo è il nostro obiettivo. Poi in tutto questo dobbiamo arrivare in Europa League naturalmente, quantomeno, e poi vediamo quello che succede, ma non dobbiamo farci troppe domande. Noi non crediamo, sicuro, manca tanto e adesso solo pensiamo in vincere e pescare, che è una partita troppo importante per noi. Abbiamo sentito Montella che ha perso con Napoli, di cui poi parleremo ovviamente, anche perché ieri c'è stata questa uscita di Ambrosini che ha fatto molto discutere. Napoli più forte del Milan di Sacchi, alcuni sono caduti dalla seggiola. Credo sia argomento, possa diventare argomento di discussione accademica. In ogni caso, Milan e Inter, due facce diverse, Milan leggermente in flessione, ma non è, credo non sia nemmeno questo il punto. Quanto all'Inter, secondo me Pioli non ha la polverina magica in tasca, nonostante le 8 vittorie su 8, ma ci sono altre ragioni. Intanto c'è Spalletti che ha pure come Allegri il gusto dell'umorismo. Ma parla un discorso a 7-8, perché poi sono diverse le squadre che hanno il tempo di recuperare, perché l'Inter sta venendo su forte, il Milan si è confermato anche nella sconfitta una squadra di livello, una squadra che gioca un buonissimo calcio e che ha delle idee. Il Napoli ha vinto una partita difficilissima. Vabbè, direi che lo scudetto è un discorso a 7-8, a me fa semplicemente ridere, così come credo che leggo ora sui siti possa andare in porto un'offerta di 10 milioni l'anno da parte dei soliti cinesi per Dani Alves, che fino adesso alla Juventus ha cantato molto bene ma non ha giocato all'altezza. Abbiamo visto in diversi video esibirsi di Rakitic molto bene. Quanto al campo, 10 milioni per la Cina direi che ok, il prezzo è giusto, 10 milioni che andrebbero ovviamente a lui non si sa quanto alla Juventus. Ci ha raggiunti Aldo Serena che ha commentato Milan-Napoli domenica sera, ciao Aldo. Ciao a tutti, io non veramente Juve Lazio, informazioni mi date? Mi fate sbagliare apposta per farmi fare delle figure di. Beh, la cosa grave è che tu non abbia sentito Juve Lazio con noi, questo è molto grave. Fra i 979.000 che hanno seguito Juve Lazio ieri, col 5-10% di share. Amico mio, premio. Tu sai come funziona qui, però fai il bravo. Da perché... casa, Milan-Napoli, l'hai seguita da casa. L'hai seguita da casa, quindi vale lo stesso. Pardo è andato allo stadio, non mi rompete le scatole, sennò io chiamo l'ufficio inchieste, perché c'è materiale anche per questo. Pardo, hai preso il risultato della Samp perché avrai parlato con Rizzoli, mi scrive un ascoltatore, quindi facciamo i bravi. Dicevo, ordine, Pioli non ha la polverina magica in tasca? 8 vittorie nelle ultime 8 partite sarebbe, dopo l'esonero di Obor, secondo in classifica alle spalle del Napoli, bla bla bla, queste sono masturbazioni mentali abbastanza secondo me, però le 8 partite vinte su 8 non sono invece dei numeri che contano. Non ha la polverina magica in tasca, ma secondo me idee semplici, e poi ha battezzato come ogni allenatore che si rispetti con grande sagacia emiliana, con grande così concretezza, ha battezzato 7-8 giocatori e fa giocare sempre quelli. E poi cambia di volta in volta uno o due giocatori. Ieri ha tenuto fuori Joao Mario, poi l'ha messo e ha fatto gol. Però ha battezzato innanzitutto un'ossatura dell'Inter, anche dal punto di vista degli interpreti. Sei d'accordo, Aldo? Sì, ha dato dei punti fermi, è riuscito a dare equilibrio a questa squadra, è riuscito a cambiare la fase difensiva. Adesso è la terza difesa del campionato, l'Inter, che sembrava un'armata Brancaleone qualche mese fa, ed è molto concreto. Anche nella partita di ieri soprattutto ha fatto un'inversione di tendenza, che è quella anche un po' di, non dico della fortuna, però quando poi le cose cambiano anche a volte in situazioni particolari come quella di ieri. Io credo che qualche tempo fa la partita di ieri l'Inter non l'avrebbe vinta, con giocatori magari un po' sottotono, da Icardi a Banega ai due esterni bassi, e quindi è un Pioli che ha ridato anche un morale, un fiducia ai suoi giocatori. Sì, ha vinto come stanno facendo spesso il Napoli e la Roma, Pierluigi. Non a caso ci sono due numeri molto vicini, che sono quelli dei gol subiti dell'Inter, 2 nelle ultime 6 partite, e della Roma 2 nelle ultime 7. Ma guarda, queste 6 partite, queste 6 vittorie dell'Inter non è che siano state 6 partite spettacolari, ma questo non è una cosa negativa, anzi in realtà è un'ottima notizia secondo me per l'Inter, perché vuol dire che sono arrivate attraverso la sofferenza, attraverso la capacità di aspettare, attraverso la pazienza, e quindi è una squadra che trova per 6 volte consecutive sempre la soluzione giusta, è una squadra di grande livello. Adesso è inutile girarci attorno, c'è Inter-Pescara e poi però c'è una settimana che ci dirà tutta la verità sull'Inter, perché c'è Inter-Lazio di Coppa Italia, che è comunque una partita non semplice, è importante, avrà è importante. Vantaggio ovviamente di giocarla in casa, e Inter-Lazio fin da 3-0 lo sappiamo poco prima di Natale, ma sappiamo anche che in quel primo tempo la Lazio aveva avuto delle occasioni e ha messo in difficoltà l'Inter, quindi ho la sensazione che sia veramente una partita equilibrata e vedremo come se la caverà. E poi c'è la madre di tutte le partite, perché in questo momento insomma Juve-Inter, premesso che la Juve in casa vince sempre, però insomma è una delle, una partita arrapantissima, se mi passi l'espressione sarriana, no? Da una parte e dall'altra, al di là della rivalità, è la sfida fra la squadra emergente e la squadra leader, quindi sì. In quella settimana sapremo tutto. Ad oggi mi sembra che ci sia equilibrio, ripeto, non è un Inter sempre spettacolare, il livello degli avversari in queste 6 partite non è stato, a parte la Lazio, altissimo, però porta a casa 3 punti. Porta a casa 3 punti, e intanto la Roma si è interizzata. Parlo dell'Inter di Mancini dell'anno scorso, perché siamo al terzo 1-0 consecutivo. E il prossimo che critica Dzeko, giuro mi incazzo. Allora, Aldo, stai lì un attimo, traffico, e torniamo. Tutti convocati. E con Pierluigi Pardo e Aldo Serena volevo chiudere il discorso sull'altra milanese, cioè sul Milan. Comunque vada per il Milan, se porta alla fine questo tipo di campionato, Montella parla giustamente di Europa League, perché quello deve essere la missione, quella deve essere la missione. Se porta alla fine questo tipo di campionato, sarà comunque un successo di immagine rispetto a tutte le altre ultime stagioni, perché è una stagione piena di segni positivi. Questa è la mia idea. O sono troppo buono, Aldo? Beh, sì, bisogna guardare alle origini. Quindi quest'anno sembrava una stagione di transizione per il Milan. Devo dire che questo migliore il Milan ha fatto con Montella, che ha dato una quadratura inizio stagione, non giocando in maniera brillante, ma coprendo bene gli spazi difensivi e lavorando sulle qualità dei propri attaccanti come velocisti nelle ripartenze. Poi piano piano è un didattico, il lavoro lo sa fare benissimo sul campo, sta facendo crescere i suoi giovani, sta facendo giocare il Milan, ecco, non sempre nei 90 minuti in maniera coerente e perfetta, però ecco, a sprazzi, ecco, soprattutto nei secondi tempo riesce a mettere in campo un Milan, ecco, che ricorda un Milan arrembante dei tempi migliori, un Milan che cerca di aggredire la partita, che va in avanti con moltissimi giocatori. Io penso che questo Milan, che ha giovani, tanti giovani italiani, sì, che possono crescere, abbia sicuramente fatto una delle squadre più giovani d'Europa, una delle squadre, questa assomiglia tanto a una base di partenza, cosa che negli altri anni non si vedeva. Senti Aldo, prima di salutare ti sto vedendo Ruud Gullit che sarà qui domani e che sta parlando su Sky. Tu hai giocato contro quel Milan, Ambrosini dice che questo Napoli è più forte, non credo. Credo scherzasse. Beh, io penso che il Napoli ha dei picchi in alcuni spezzoni di gara, di un gioco spettacolare, perfetto, fatto di velocità e di verticalizzazioni. Però ecco, un paragone con una squadra che ha vinto tutto nel mondo non va fatto, ecco, andrebbe fatto forse fra qualche anno, quando il Napoli vincerà qualcosa di importante come ha fatto quel Milan. Sì, quando Napoli avrà Gullit, Van Basten, Franco Baresi, eccetera, eccetera, perché io continuo a sostenere che possiamo parlare di filosofia, cioè di gioco, e questo Napoli è certamente parente di quel Milan, Pierluigi, lo dicevamo anche ieri, ma dal punto di vista della qualità degli interpreti, vabbè, giudicate voi. Questo Milan invece, sei d'accordo sul fatto che somiglia ad una base, per chiudere questo discorso? Io? Sì. Beh, il Milan, a me è piaciuto il titolo della gazzetta di ieri, il Milan anche nella sconfitta ha mostrato di valere, ha mostrato, io sul 2-0 mi aspettavo onestamente un'ecatombe tipo l'anno scorso, e invece non è andata così, è andata con una grande reazione, uh-huh, e il Milan poteva anche pareggiare. Qualcuno si è arrabbiato, io l'altra sera ho scritto in un tweet che Milan ha tanto coraggio, si vede che la base è quella di una rosa da sesto posto, forse non è il sesto ma il quinto, ma siamo sì, lì. Sì, siamo lì, siamo lì assolutamente. Il Milan ha viaggiato sopra le proprie, probabilmente sopra le proprie potenzialità per buona parte della stagione. Ha ancora delle possibilità, anche se io ripeto, penso che Roma e Napoli abbiano forse anche la stessa Inter qualcosa in più, quindi la Champions mi sembra abbastanza complicata, però è una base ottima di partenza dal punto di vista degli uomini, perché comunque ci sono questi italiani che miglioreranno, se la società avrà la forza di tenerli, questi qui saranno la base di una nuova generazione importante. E come secondo elemento c'è il gioco, cioè questa squadra è una squadra che gioca a pallone, quindi l'insieme di uomini giovani, bravissimo, forti, potenziali, e di gioco comunque di un certo tipo, io penso segno che positivo possa portare, assolutamente segno assolutamente positivo, cioè, per la stagione del Milan, al di là di quello che poi dico sempre, che poi comunque alla fine i grandi club nel calcio di oggi non devono, i tifosi non devono temere, perché i grandi club hanno un nome, una storia talmente attraente che inevitabilmente arriveranno gli investimenti, cioè oggi è sempre di più il mondo dei ricchi. No, è chiaro. Nel mondo del calcio, però è anche il mondo dell'immagine. Secondo me il Milan sta dando una, dopo molti anni, sta dando un'ottima immagine di sé. Assolutamente. Questo è il mio pensiero. Non c'è dubbio, è una strada che probabilmente si poteva imboccare qualche tempo prima. Esatto. L'avevamo anche detto tante volte in questi anni, no? Che se c'è un tifoso che deve essere con la pancia piena, è il tifoso del Milan. Nessuno ha vinto come tifoso del Milan negli ultimi 30 anni. Insomma, è una squadra che ha dominato. Quindi, insomma, un cinquantenne rossonero ha goduto una quantità di volte della vita mostruosa, molto più che altri tifosi, quindi c'erano tutti i presupposti per poter fare magari prima un discorso di questo tipo, però amen, è anche vero che insomma non è facile cambiare la propria filosofia, la propria pelle, da squadra galattica piena di giocatori di grande livello, che magari va a cercare Ronaldinho, il Ronaldo anche magari a fine carriera, perché ci vengono Beckham, sono passati giocatori straordinari, insomma io mi ricorderò, forse l'ho anche raccontato una volta, una sera che tornavo a casa dopo il derby di Milano, bloccando il portone, c'avevo Beckham che stava andando a cena nel ristorante sotto casa, cioè Beckham sotto casa non c'è effetto, e assolutamente mi piacciono le donne, però voglio dirti, sono stati anni gloriosi, poi quando i soldi si sono un po' esauriti, il Milan ha provato a ricorrere al suo grande brand e sicuramente si è portato a casa dei giocatori. No, poi deve avere anche le mele buone nel frutteto, perché Donnarumma, Locatelli, Calabria, eccetera. Oggi c'è un frutteto interessante, c'è una filosofia, ma mi sembra, io ero allo stadio l'altro giorno, mi sembra che il popolo rossonero stia capendo perfettamente, cioè credo che ci sia grande coerenza, grande chiarezza e grande unità. Questa è la cosa che i milanisti, io te lo testimonio da questa sedia, da questo microfono, perché sono qui ormai dalla preistoria. Questo è quello che negli anni che tu citavi il popolo milanista, almeno da questi microfoni, chiedeva: una squadra come quella che sta vedendo adesso. dopo tante vittorie. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno, chiamo dalla provincia di Pavia. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo parlare, cioè, un paio di cose. Allora, una sulla Juventus, che sentivo prima dire che era la settima formazione, mi sembra, cambiata da Allegri. Sì, effettivamente ha fatto tanti cambi, però forse non viene considerato che Allegri comunque ha avuto una miriade di infortuni, perché comunque è dall'inizio dell'anno che la Juventus in ogni reparto, specialmente nella difesa, ha sempre avuto, ogni mese ha sempre avuto un infortunio, perché ha iniziato Pjanic all'inizio del campionato, Piazza si è fatto male, è stato fuori 2 o 3 mesi, Dybala è stato fuori 2 mesi, la difesa non è stato fuori più di 2 mesi dopo l'Europeo, la difesa non ha mai giocato titolare. Marchisio è stato fuori 6-7 mesi, Dybala è stato fuori praticamente l'intero girone di andata, ha avuto, è vero, tantissimi infortuni. Aggiungiamo pure il fatto che qualcosa si è rotto magari a livello anche così di rapporti con Evra, che pure è in uscita e lo sappiamo bene, ma a me sorprende molto comunque la cessione di Evra, che te lo dicevo l'altro giorno, Pierluigi è sempre stato uno delle anime di questa squadra e mi sorprende il fatto che stia andando così come te ne stai andando tu, amico mio, perché hai da preparare Tiki Taka allora stasera a Parterre de Rouen. Parte del Verua, sì, sicuramente, insomma, dai, ci divertiremo. 23:40 Italia 1. Sono curioso di sentire il CT, perché adesso è da un po' che non lo sentiamo, sia sulla nazionale che sul resto, ma anche per esempio sulla svolta di Allegri di ieri, e poi Gullit, insomma, lo stiamo vedendo, sta girando un po' ovunque, ma lo coinvolgeremo sia sulla salita del Milan che i suoi anni, e credo che ci divertiremo. E poi abbiamo Riem in studio, Anna Trieste, Mugini, Francesco Vandelli, grande tifoso del Milan, tutto di più, tante sorprese. Portami quelli domani, ti aspetto. Ciao. Esatto, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, GR, poi torniamo e inquadriamo in qualche modo l'argomento Napoli, perché questo Napoli forte quanto il Milan di Sacchi. Ambrosini, ma che dici? Tutti convocati. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan e Leonardo Manera ti aspettano domenica 5 febbraio al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Tutti convocati. Allora, abbiamo speso 14 milioni, abbiamo preso una società senza palloni e l'abbiamo riportata in B, vinto 2 coppe, acquistato la storia e aggiustato il manto erboso. Se chi contesta trova un imprenditore più facoltoso di me, lo dica, che ragioniamo. Nella vita tutto è in vendita, la gente dovrebbe apprezzare maggiormente quello che ha. Lo ha detto Claudio Lotito, le cui parole sono diventate ormai più famose dei gronchi rosa, non parla più Lotito, però leggiamo questa sua dichiarazione, perché non solo a Roma, ma anche a Salerno ce l'hanno con lui. Paolo, grazie dell'attesa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dunque, una considerazione e una domanda che esula un po' dal calcio. Sono uno juventino, non amante di Allegri all'inizio, ma... di quelli che si sono ricreduti. Sono un tifoso vero, quello che conta è alla fine della stagione il risultato. Quelli che dicono conta lo spettacolo sono normalmente gli interisti, che non vincono una mazza e amano, per cui si accontentano dello spettacolo. A me interessa alla fine. Non è che si accontentano. Per gli amici interisti che sono all'ascolto, chiaramente. Ma questo era evidente, l'avevano capito tutti. Amici di Paolo da Savona, interisti, beccatevi questa. Ecco. La seconda, la domanda che esula, che però mi sto interrogando dai tempi di Schwarzer: perché non possono fare, quando fanno il prelievo delle prevette, lasciarne una o due sigillata al prelevato, cioè all'atleta? Io produco olio. Mi vengono a fare prelievi per i controlli, mi lasciano 2 bottiglie sigillate con tanto di firma per eventuali contestazioni. perché non lo fanno, o se lo fanno perché non è stata usata? È una domanda che esula un po', ma mi frulla in testa da tempo. Poi non sono mai più riuscito a parlarvi, però perché non lasciano, cioè sarebbe molto semplice, no? Ti lascio due provette, sì. Se mi contesti, sigillate con la ceralacca del notaio, non so, potremmo chiedere anche in ospedale magari, non so se ce ne rilasciano. Guardi Paolo, io mi arrendo a questo, non so dare una risposta, ma prometto di informarmi con le autorità competenti, facciamo così, non lo so perché. Grazie comunque, beccatevi quella di Paolo, amici interisti, voi che per cui conta solo l'estetica, che non vincete una mazza, come dice lui. Gilberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Interista. Milanista. I commentatori televisivi di Milan-Napoli mi sono passi molto indulgenti verso Luigi Donnarumma, con grosse colpe sul primo gol e qualcuna sul secondo. Una captaggio benevolente. Sono d'accordo con Leo. Captaggio benevolente. Un giovane che merita tutto, o un po' di più, maggior spirito critico lo sveglierebbe di più a questo ragazzo. Grazie, no, arrivederci. No, per quanto ci riguarda, le abbiamo sottolineate ieri le imperfezioni di Donnarumma, ma è un grande portiere con grande personalità, con pochissima esperienza e che non è esente da colpe, né in questo caso né in altri che possiamo ricordare. Io sono d'accordo con lei, ma non credo sia captatio benevolenzie. Quello che i gol che ha subito sono in parte colpa sua, però alla sua età qualche errorino lo concediamo. Il problema è che se l'errorino lo fa un mediano, ce ne accorgiamo un po' di meno. Quando lo fa un portiere diventa molto banalmente diventa più evidente. Renzo da Imperia, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie per l'attenzione che mi dedicate. A lei. Intanto concordo perfettamente con l'ascoltatore che è appena intervenuto su Donnarumma e anche con lei, Genta. Io però volevo dire la mia sull'intervento di Ambrosini, di cui non ero a conoscenza, che ho saputo poco fa ascoltando la vostra trasmissione. Io sono perfettamente d'accordo con Ambrosini. O perlomeno sono più d'accordo di vero con Serena, che ha fatto un distinguo dicendo che il Napoli a tratti è sembrato quel Milan. Poi concordo invece con lei che prima di definire il Napoli, io ho visto sabato sera la partita dal vivo, non si vede come in televisione dal vivo, si vede esattamente lo schieramento, come lei benissimo sa, dei giocatori in campo, quindi il Napoli mi è apparso proprio quella squadra del Milan. Sì, no, ma è suo parente, calcisticamente. Parente di quel Milan. Poi passiamo da un estremo all'altro, no? Dall'intervista dell'altro giorno di Van Basten, che dice: il mio più grande rimpianto è non aver giocato altri 3-4 anni, altrimenti questa favola del Barcellona sarebbe, che si è scritta in questi anni, sarebbe diventata un libro di serie B. Lì c'è anche la presunzione del campionissimo. È chiaro che quel Milan aveva della qualità individuale superiore rispetto a questo Napoli. Poi io ricordo anche partite di quel Milan inguardabili in momenti in cui non erano in grandi condizioni fisiche. Però questo grande elogio del Napoli, che attualmente viaggia a un potenziale meno 7 dalla Juventus, poi Spalletti dice che tanto sono in corsa tutte, comprese Cagliari e Udinese. La realtà non è questa per lo scudetto, c'è la Juventus che è in fuga, che sta gestendo il suo vantaggio attualmente minimo, ma continua a considerare questa una classifica di cartone, perché aspettiamo l'altra partita, la partita che deve recuperare con il Crotone, che saranno 3 punti. Eppure il Napoli, che viaggia a un potenziale meno 7 dalla Juventus, adesso è forte come il Milan di Sacchi. Ma il Milan di... dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo per quello che ci ricordiamo, ovviamente eravamo tutti più piccoli. Il Milan di Sacchi ti divertiva come ti diverte adesso il Napoli di Sarri? C'era bene o male quella piacevole sensazione di vedere una squadra giocare a calcio che hai anche adesso? Dal punto di vista calcistico questa squadra, secondo me, ha dei picchi di continuità, di bellezza di gioco migliori di quella squadra lì. Io devo dire la verità, i primi 20 minuti della partita io e Beppe ci guardavamo, eravamo un po' esaltati. Perché? Cioè, perché ci siamo divertiti. Fammi dire quello, perché Mertens è stato uomo squadra, perché i 5 gol sono una cosa pazzesca, 4-5 quelli che sono stati, no, no, una cosa pazzesca. Però quando il centravanti gioca in quella maniera, che fa muovere tutti con le sue intuizioni, i suoi passaggi al tempo giusto, al momento giusto, tecnicamente perfetti. È stata una partita emozionante fino al 90esimo, addirittura folgorante l'inizio del Napoli. Ha fatto 25-30 minuti, 25 minuti di un calcio scintillante con azioni velocissime, con capacità di movimento, sincronismi perfetti, tutto perfetto. C'è organizzazione, sanno quello che devono fare, sono sempre tre o quattro i giocatori che si muovono sempre, regolarmente su ogni azione. È difficile per qualsiasi avversario riuscire a porre rimedio a tutti gli smarcamenti che il Napoli fa. Dobbiamo definirlo un piccolo Barcellona, ma che è quanto zucchero e miele. Antonio Giordano del Corriere dello Sport. Sì, mi attendo di Mattia Bazzar, mi verrebbe da dire c'è tanta gente intorno. Me l'hai tirata, che ti devo dire? Te l'ho tirata, che te devo dire? Rispondimi. Ma ti devo dire che vista da qui giù mi sembrava, come dire, la narrazione un po' faziosa di chi segue il Napoli tutti i giorni e rimane stupito. Dopo i primi 20 minuti mi sono anch'io chiesto, ma questi dove vogliono arrivare, come avrebbe detto Totò nella Livella? E invece vogliono arrivare non so dove, ma vogliono arrivare in alto attraverso un concetto di calcio che, come ha detto il maestro Sacchi, è folgorante. Sì. Perché questa è la grande bellezza del calcio, cioè la capacità di essere opera orchestrale, soprattutto nel primo gol, che sembra una banale azione di contropiede, se andate a rivederlo, e invece c'è l'essenza di un'organizzazione tattica nel no look di Mertens, che gira la palla sul campo aperto, sul secondo uomo, tanto lo so che sta lì, sembra dire, no? Sì, ma lo sa che è lì. Sì. fate ma questo. Poi c'è tanto altro, cioè c'è una capacità di palleggio stretto, largo, che di indiscutibilmente enorme statura tecnica. No, ma a me impressionava già l'anno scorso il modo in cui il Napoli era messo in campo, e si vedeva anche dalla televisione, figurati dallo stadio, che è un osservatorio ovviamente privilegiato. Il modo, erano quasi comandati con la PlayStation i giocatori, per il modo in cui stavano in campo. Quest'anno ha aggiunto pazienza, ha aggiunto consapevolezza. Quindi tu sei per lo zucchero e il miele, per questa colata di zucchero e miele sul Napoli? Non riesco a farne a meno neanche io. Non riesci a farne a meno neanche tu? No, devo dire la verità, è difficile fermarsi perché sono veramente bravi. Devo dire che il destino ci ha messo del suo, perché io il 28 luglio, me lo ricordo soltanto perché incidentalmente è una data, intervisto Sarri in ritiro a Di Maro. Sì. Era appena andato via Higuain. Sì. E si parlava all'epoca di tanti centravanti, dai Cardi a Bacca, passando anche per Milik che stava per arrivare, fino a Jovetic, che era una tentazione. E lui a un certo punto mi dice: mi garba l'idea di provarci con Mertens. L'idea gli è venuta per forza quando si è fatto male Milik e ha scoperto che aveva in sé un centravanti straordinario, che non è un centravanti, lo chiameremo falso 9. È invece autenticamente vero, perché è capace di spostare la linea dell'attacco, di uscire, di mandare in porta chiunque, perché anche nel secondo gol, se vedete, lui fa il movimento ad allargarsi e lascia che venga nella sovrapposizione Calleoni. Cioè c'è l'intelligenza degli esecutori, ma c'è anche, soprattutto devo dire, la mano di un maestro che non smetterò mai di chiedermi come mai fino a 56 anni sia rimasto confinato ai margini del calcio. Sì, che poi adesso è diventato anche molto bravo dal punto di vista della comunicazione, migliorato molto anche da quel punto di vista lì. Se vogliamo trovare un altro miglioramento del Napoli rispetto l'uomo all'anno scorso, l'uomo intelligente, dunque, non ha peli sulla lingua, dunque anche furbo. Anche furbo, ma giustamente dice: io non firmo nulla, che devo firmare? Questo, a quest'ora è una risposta scontata, nonostante io continui a pensare che la Juventus stia gestendo le sue energie. Intanto, è la più forte. Intanto 44 punti, 47 gol fatti e 47 sono una marea, 24 gol subiti. Nelle ultime 6 partite, 6 vittorie e un pareggio. L'anno scorso con Higuain mi pare fosse a quota 45 a quest'ora. Correggimi se sbaglio. Correggimi se sbaglio. Io continuo a pensare che il Napoli abbia una struttura, una vocazione, una faccia molto europea e che Corre al Madrid, quantomeno ci sarà da divertirsi. Non passerà inosservato. No. Il Napoli non passerà inosservato contro il Real Madrid. Aggiungo di più, tanto per metterci un altro po' di miele. Se tutto va come deve andare, cioè se non ci sono alterazioni, questa è una squadra destinata a diventare grandissima attraverso una continuità del progetto, parola talmente vaga nel calcio da sembrare quasi una bestemmia, sì, ma consistente a Napoli, perché lo dico nei fatti, che non so veramente dove possono arrivare un giorno. I detrattori di De Laurentiis sono ancora operativi? Ma sai, il calcio è legato molto alle simpatie. Non mi ricordo di un presidente che sia stato amato. Credo che anche il povero Moratti, che qualche soldino pure l'ha speso e qualcosa pure ha vinto, nel momento del congedo non abbia ricevuto ciò che avrebbe invece meritato. Mm. E quindi De Laurentiis se n'è già fatto una ragione. Gli hanno detto di tutto negli anni, però non piace alla gente sentirselo ridire. Sono 7 anni che il Napoli va in Europa e ci sono grandi club che negli ultimi 7 anni. Sì, bisogna fare noi perché tanto li sappiamo, no. Hai ragione. No, ma infatti io non. Ci sono varie cose che non capisco nel nostro mondo del pallone, una delle quali è la pervicacia con cui l'Azienda, ma ormai me l'hanno spiegato in tutte le salse, ha la lazialità, Lotito sta sulle palle, quindi non andranno mai a tifare per una squadra di Lotito. Un'altra è rimproverare qualcosa comunque a De Laurentiis, che è un altro che, come, parafrasando Lotito, ha preso una squadra che non c'aveva neanche i palloni. Ma lasciamo stare questo discorso troppo lungo e troppo largo. Rientreranno allora Milik e Pavoletti, possono lavorare in palestra con tranquillità, perché adesso la domanda che circola è quella che dice: ma adesso rientra Milik e che fa Sarri? Niente, Sarri non fa una piega, va avanti con Martens. Sì, la penso, no? Come te. Sì, la penso, ma voglio dire, lo capirà anche Milik, che quando starà bene poi giocherà, perché avere Milik è un'altra cosa, e avere Milik e Pavoletti è ancora un'altra cosa assieme, e averli tutti e tre ti dà la possibilità di gestire il turnover diversamente da quello che puoi fare oggi, domani sera per esempio contro la Fiorentina, poterceli avere entrambi in una condizione godibile, avrebbe in condizione sana di far riposare Mertens, che invece non riposerà. Mm-hmm. Se vai avanti e hai un futuro tra Champions e Coppa Italia, giochi ogni 3 giorni e non hai il tempo di rifiatare, è una rosa del genere con tutti gli effettivi, invece ti metti in condizione di gestire. Sì, anche se Sarri non è un turnoverista di mestiere, turnoverista, nuova parola orrenda appena coniata. Invece, guardando a chi sta facendo una battaglia con il Napoli, fianco a fianco, la Roma, 13 vittorie all'Olimpico consecutive e ha eguagliato il suo record, è il terzo 1-0, non prende mai gol, è diventata una Roma molto solida, molto seria, come piacerebbe dire a Spalletti. E poi, ragazzi, io l'ho detto prima, lo ripeto, il primo che torna a criticare Zeko fosse anche Spalletti, mi incazzo. Perché il primo che mette in discussione Fazio, ragazzi. Avete visto Fazio? Sì, appunto. Che giocatore è? Appunto. Quindi, no, devo dire che la Roma è la grande... Lo stesso Emerson. Sì, ma è una grande protagonista che viene fuori dal lavoro di un grande allenatore. Perché Spalletti credo che non vincerà mai il premio simpatia, faccio fatica a pensare che sia possibile, anche perché rientra nella categoria di quelli che stanno... Ma magari quando andrà ad allenare la Juventus, non so come fai a saperlo. No, ma io credo che per i toscani è difficile, voglio dire, maledetti come sono, lo disse Montanelli, però giocano bene, hanno ora anche la sintesi della concretezza. Sì, sono un po' corti, eh. Sì, sono un po' corti, però torneranno ad essere quelli di prima, perché l'ha detto Spalletti, quelli che stanno fuori stanno per rientrare. Sì, poi dice anche che Dzeko sbaglia una partita, è un rigore clamoroso, peraltro è uno molle, andiamo a leggere il tabellino dei marcatori, quello di ieri compreso, poi ci sono discussioni sulla regolarità di quel gol, però mi sembra che Dzeko stia facendo un campionato da superstar europea assoluta. Non sto dicendo che è un fuori classe, ma è un grande centravanti. Tu lo sai, ne hai sentito la mancanza per un po' di un grande centravanti fino a quando è arrivata questa idea Mertens. Grazie Antonio, è sempre un piacere. Un abbraccio, ciao Antonio Giordano dal Corriere dello Sport. Ora, le tre dichiarazioni, top 3 delle dichiarazioni del fine settimana, partiamo proprio da Spalletti, che si scontra televisivamente con Tardelli. Avendo preso la, la posizione di guardare Edin Dzeko, il difensore, non si può più girare dalla parte opposta, allora non vuol far passare il giocatore. Bene. È semplice la realtà. Luciano, se si tratta da pallone, se si tratta da melanzana, quella cosa rotonda è un'altra cosa. Luciano. Marco Tardelli. Luciano, sono Tardelli, non fare il toscano. Siamo. No, non faccio. Ti volevo fare i complimenti. Frena. Ti volevo fare la domanda e basta. Hai ragione, sei visto bene adesso. Hai ragione, non era fallo di Dzeko. Bello dire non fare il toscano da uno che è pure toscano. Alto Pascio Luca, luogo di nascita di Marco Tardelli. Abbiamo poi. Vabbè, Mihajlovic ormai è cliente fisso. Su Maxi Lopez. Volevo chiederle a proposito di Maxi Lopez che cosa è successo poi ieri dopo la conferenza stampa, cioè se è successo qualcosa durante la rifinitura, cioè come mai si è arrivata a questa scelta? Non è successo niente, perché di Maxi ha solo il peso per adesso, sono 4 mesi che cerchiamo di metterlo in peso forma, ma è inutile, cioè, per giocare in questa squadra bisogna rispettare certe regole e basta, tutto là. Il giorno prima ho detto no, la lavatrice non l'ho convocata, sta a casa. Infine Gullit, che sarà il nostro ospite qui a Radio 24 domani pomeriggio, quindi già scaldatevi, dovrebbe arrivare verso le 3 insieme a Pierluigi Pardo. Allora, argomento cult, Gullit, l'Italia e le donne da Fazio. La cosa che ho imparato in Italia è che di apprezzare la bellezza della vita, perché gli italiani piacciono tutto che ha da fare con bellezza, la donna soprattutto. Le macchine, non solo l'orologio, non solo gli italiani però. Però gli italiani sanno, perché lo fanno la moda anche. Sì, mi riferivo alle donne, non alla. No, ma prima dobbiamo dare un complimento alla donna. Grandissimo tombeur de femme, ma non scopriamo niente di nuovo. Ruud Gullit. Intanto, essendo epoca di spogliarelli. Volevo tanto chiamare Carlo Pernat, però è Roberto Ungaro, The Voice, per quando parliamo di moto. Spogliarelli per la Yamaha, spogliarelli per la Ducati. Per la verità dovevamo parlarne venerdì, il giorno della caduta del velo sulla Ducati. Poi giustamente qui a Radio 24 è stata presa una decisione editoriale, redazionale diversa, giornalistica diversa, di raccontare minuto per minuto ciò che stava succedendo in Umbria. Ma oggi c'è Roberto Ungaro. Ciao Roby, come stai? Ciao Carlo, bene. Bene, siamo pronti per i primi test tra poco e a Sepang, dove vedremo finalmente le carte scoperte. C'è appena stata la presentazione Ducati, se ne è parlato tanto, Orge è molto carico, si è reso conto cosa vuol dire far parte di una casa direttamente e non una casa giapponese, il calore, l'affetto della gente e poi tanta curiosità per il discorso della Lette, come abbiamo sempre detto dal regolamento saranno vietate, ma Ducati sta tirando fuori qualche cosa dal cilindro, loro hanno sempre investito tanto nella ricerca e magari con una carena nuova che sarà presente solo in Qatar, come ha detto Gigi Dall'Igna, perché si vedrà solo allora, potrebbero un po' sopperire a queste alette, non sarà la stessa cosa, ma la forma di una carena con vesta, concava, tu sai, può lavorare in quella direzione, quindi aiutare a tenere il davanti appoggiato a terra, la grande differenza che ha fatto la Ducati l'anno scorso ed era molto competitiva ed è un discorso che la rende anche molto sicura. Non per niente le gomme, l'andamento delle gomme, la performance delle gomme di Ducati era molto altalenante l'anno scorso, perché? Perché aveva tanto carico davanti, queste alette che, come immaginiamoci le ali di un aereo, questo effetto deportante che schiaccia a terra, no? La moto non è la Formula 1, ha meno massa, meno volume, quindi è meno importante rispetto alla Formula 1, ma comunque è un fattore. Ma tu sei d'accordo con chi dice, e sono in tanti, nei primi Gran Premi della stagione, occhio alla Ducati? Sì. Allora Carlo, perché a regola lui passa da un 4 in linea a un V4 e poi la Ducati, l'abbiamo già detto, ma è completamente diversa, quindi l'apprendistato sarà difficoltoso, però le prime 3 gare extraoceano e soprattutto la prima in Qatar, la Ducati è la moto da battere, cioè è sempre stata nettamente avvantaggiata e allora ecco che podio sicuro, ma può fare anche il colpaccio, cioè Lorenzo non è detto che veramente possa anche vincere subito lì pronti via. Poi alla quarta gara, quando si tornerà in Europa a Jerez, le cose cambiano, però sarebbe già una bella iniezione di fiducia per lui e per il marchio. Quindi c'è da aspettarsi la sorpresa, perché lì la Ducati è sempre stata la moto da battere. Quindi è vero che lui è nuovo su quella moto, però ci sono tre test ancora da giocare, c'è un po' di apprendistato. Bellissima la sua dichiarazione quando ha detto: sono salito in sella, ho fatto due giri per capire dov'ero, perché la Ducati è veramente un mondo a parte. Quando dopo il secondo giro ho potuto spalancare l'acceleratore sul primo rettilineo, mi è venuto sorriso, perché mi è venuto sorriso, sì, mi ricordo. La Ducati fa paura in quanto a prestazioni. Ma siamo vicinissimi ai primi test, noi da lì partiremo, Roby? Lì partiremo, sì, puntuali. Si scopriranno le cose, come sempre. Grazie, caro Roberto, ti abbraccio. Ciao Roberto Ungaro. Ciao Roberto Ungaro e a tutti voi. Vi aspettiamo domani dopo l'Europa. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari, che si chiamava Lavezzi, l'avevamo già detto, l'avevamo già venduto ai cinesi. Ciao a tutti, a domani.